Sempre a pagina 50 troviamo appunto che questa frase, fenomenologi europei dicono che cosa possono insegnarci di nuovo? Ci insegnano che la via migliore per capire un altro essere umano è quella di penetrare la sua Weltanschauung ed essere in grado di vedere il suo mondo attraverso i suoi occhi, cioè di vedere il suo mondo e il mondo attraverso i suoi occhi. Cioè, in pratica ci stanno dicendo che l'empatia, l'empatia anche cognitiva, la comprensione non solo dei significati, quindi la comprensione dei suoi pensieri e quindi delle sue emozioni, è fondamentale per capire un altro essere umano. E poi continua Maslow, naturalmente qualsiasi filosofia positivista della scienza troverebbe difficoltà a secondare questa convinzione. Beh, certo, perché la visione positivistica parte da la separazione soggetto-oggetto. Soggetto-oggetto, quindi io come essere conoscente per capire l'altro mi devo separare e catalogarlo, inquadrarlo in cose che poi verifico magari sperimentalmente o attraverso sistemi analitici, escogitare degli esperimenti, escogitare dei sistemi di controllo per verificare che le mie idee siano corrette. Allora, ma qui ci troviamo di fronte alla grande divisione, tra una parte la scienza cosiddetta oggettiva in senso forte e dall'altra la scienza empatica. Allora, la scienza oggettiva in senso forte può servire in certi contesti, tutte le volte che studia la meccanica, le forze, va bene, ma quando studia fenomeni più sottili occorre una scienza che si abitui a trattare con la risonanza e quindi con i fenomeni dell'empatia e della soggettività. Questo è qualcosa che già ci diceva Goethe, ma poi successivamente, poi nella seconda parte del Novecento, vari autori, tra cui Maslow, la scienza empatica. Allora, tutto questo non c'è niente di nuovo, perché la conoscenza per risonanza è qualcosa che dall'Oriente ci viene proprio da tanti secoli, da migliaia di anni. Il maestro in Oriente conosce diventando l'oggetto della sua conoscenza, quindi tutt'altro che separandosi, ma entrando così profondamente in contatto da diventare l'altro. Ma per fare questo chiaramente deve essersi svuotato di se stesso. E questo da un certo punto di vista ci fa capire qual è il collegamento con la mistica, perché la mistica ci dice che dobbiamo fare il vuoto. Vuoto di che? Da cosa ci dobbiamo staccare? Ci dobbiamo staccare dalle strutture dell'ego, cioè dalle strutture del potere, dalle strutture che utilizzano la forza anziché la risonanza. L'ego è forza anziché risonanza, è potere anziché condivisione. Allora la mistica città ci dice: dobbiamo operare il distacco da cosa? Da noi stessi, ma quindi deve morire la nostra anima, intendendo nella mistica come anima l'ego, ecco, per poter poi comparire il fondo dell'anima, cioè la vera anima umana, che è fatta di che cosa? Di risonanza, di spirito. Lo spirito è la risonanza più pura che c'è. Ecco, allora se noi comprendiamo questo, comprendiamo quanto siamo ancora lontani d'aver chiarito a livello intellettuale e a livello della cultura attuale queste profonde comprensioni che ci derivano dal frequentare campi di studio differenti. Anche nella fisica quantistica, oggi se vediamo la versione del giudice, che è molto interessante, ci viene proposta questa distinzione tra la forza che è esteriore e la risonanza che è interiore. La forza richiede appunto di potenza in senso fisico, massa, peso. La risonanza non c'è bisogno di tutto questo, è semplicemente una sintonizzazione estremamente sottile. Quella stessa sintonizzazione che consente a una madre di entrare in contatto col bambino e consentire al bambino di crescere sano. Quindi tutte queste cose vanno tenute insieme, seguendo qua l'insegnamento di Krishnamurti e gli altri grandi maestri, che ci invitano a non separare le conoscenze, ma a creare dei collegamenti sempre più profondi.